stati diversi purtroppo gli attentati, gli atti intimidatori, dal sabotaggio dei mezzi al sabotaggio delle strutture, danneggiamenti di vario genere. Per dire, noi ci siamo, siamo qui, siamo presenti, se vogliamo possiamo. Mai l'attività della cooperativa si è bloccata, nemmeno per un istante, anche a seguito degli attentati. Abbiamo dimostrato veramente la forza di volontà in modo forte che ci ha spinto e ci sostiene in questi anni. La cooperativa è una scommessa vinta, dice Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. La prima scommessa che hanno vinto è quella di fare cooperativa in una terra dal forte individualismo. La seconda scommessa che hanno vinto è di fare cooperativa su dei terreni confiscati alle mafie. Abitare quei terreni significa ridare alla gente la possibilità di riappropriarsi del proprio territorio. Gli attentati intimidatori sono appunto il segno della debolezza delle mafie. La mafia, guardando quei terreni abitati da tanti ragazzi che vengono da tutta Italia, incomincia a dire: questo non mi appartiene più, non è cosa mia, è cosa loro. Ortaggi, olio e miele sono cosa di questi ragazzi e crescono su 120 ettari di legalità, frutto di un gesto semplice ma concreto, come vuole il motto della cooperativa che arriva da Socrate: chi vuole muovere il mondo, muova prima se stesso. Italia in controluce. La seconda traccia ci porta ad un grande giornalista e scrittore che parla di italiani, popolo di emigrati, Floriana Aliuni. Cosa ha voluto dimostrare con un libro come L'Orda, che raccoglie una serie di quadretti di italiani migranti? Ho voluto semplicemente ricordare a tutti noi quello che siamo stati, perché se noi non studiamo la nostra storia poi non riusciamo neanche a affrontare il presente. Se noi avessimo studiato l'emigrazione italiana senza raccontarci la balla, che è stata una cosa meravigliosa in cui tutti i nostri papà e i nostri nonni erano amatissimi eccetera eccetera, avremmo capito che le Little Italy non erano dei posti pittoreschi con la pizzeria Bella Napoli e la pasticceria toscana, erano dei ghetti, e quando nascono dei ghetti, i ghetti creano diffidenza all'intorno. Avremmo evitato che nascessero via Anelli a Padova, che nascesse Porta Palazzo a Torino, che nascesse via Paolo Sarpi a Milano. Come nasce il viaggio più lungo? Da tantissimi anni di interesse per il tema dell'immigrazione, il libro che accompagna il DVD, che è il DVD dello spettacolo L'Orda che facciamo assieme alla Compagnia delle Acque da tanti anni, è il dizionario dell'immigrazione italiana, è fatto tutto di citazioni. Cioè, si parla di baglie ed ecco che c'è la citazione di un libro stampato a Milano nel 1830 di Alfredo Bianchi, che dice: sia la nutrice di robusta corporatura ma non grassa. Oppure si parla di vendita di bambini e c'è un contratto d'acquisto di un bambino in Toscana. Sono tutti documenti che aiutano le persone interessate, e io spero che siano sempre di più, a scoprire cos'è stata la nostra emigrazione al di là delle sciocchezze che ci siamo raccontati per anni. Risorgimento, emigrazioni, immigrazioni, unità d'Italia, come stanno insieme tutte queste cose? Beh, intanto è una storia che tocca a tutti. È la più grande epopea italiana di tutti i tempi, probabilmente l'emigrazione italiana. Quando è arrivata l'Unità d'Italia, 1861, negli attuali confini italiani vivevano 27 milioni di persone. E complessivamente le persone che hanno lasciato l'Italia per cercare fortuna all'estero sono state 27 milioni. Cioè, è come se tutti gli abitanti che c'erano in Italia nel 1861 se ne fossero andati. Beh, è stata un'emigrazione formidabile, con molti lutti, molti dolori, molti errori, ma è stata anche un'emigrazione di straordinario successo. Abbiamo regalato persone che si sono fatte onore, da Amedeo Obici, che ha inventato le noccioline americane, Federico Faggin, che ha inventato il microprocessore e il touchpad, così come succederà anche in Italia, piaccia o non piaccia a certi razzisti, che fra qualche anno ci saranno dei figli di immigrati che si sentiranno molto più italiani di tutti gli italiani. Mi pare l'anno scorso il premio Voghera per la più bella poesia in dialetto lombardo è stata vinta da un ragazzo cinese. Lo stereotipo peggiore che è stato dato agli italiani all'estero? Carcamano, cioè quello che calca con la mano sulla bilancia per fregare sul peso in Brasile, Babis, quindi Rospo in Francia, WAP, gli americani pronunciavano WAP come se fosse guappo, e WAP è una sintesi di without officer papers, quindi senza documenti ufficiali, e cioè clandestini, come del resto sono stati almeno 4 milioni di italiani. La seconda edizione di Italia in Controluce, il mio blog radio24.it, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì 6 dicembre alle 6:30.